Dentro il cuore sento un gelo strano. Il mio sorriso è una maschera di scena. Ogni giorno lotto per sembrare sano, ma la forza vacilla appena appena. Le luci su di me non smettono mai, anche se il buio mi prende dentro. Cado in silenzio ma nessuno lo sa. Recito ancora in questo centro. Ma lo spettacolo lo deve andare avanti. Non importa il dolore che provo. Lo spettacolo non può fermarsi ora, anche se dentro tutto è vuoto. Un'anima spezzata che nessuno vede. La mia volontà resiste alla corrente. Cerco risposte in ciò che accade, ma tutto sfuma nella mente. Ancora indosso questa maschera forte, anche se il cuore grida piano. Forse un giorno capirò la mia sorte. Ora continuo da solo lontano. E lo spettacolo devi andare avanti, anche se sto cadendo a pezzi. Lo spettacolo continua a brillare mentre mi consumo tra riflessi. La mia voce si alza tra le ombre, nel vento spargendo verità. Anche se l'eco è solo polvere, non smetterò di cantare mai. Sì, lo spettacolo va ancora avanti, nonostante tutto resto qui. Lo spettacolo non può finire adesso, finché respiro. E così sia.